Ci sono certe pagine del Vangelo, della Bibbia, che ti prendono il cuore. Io oggi, celebrando la Santa Messa, ne ho incontrata una di queste che mi segue da tutta una vita e mi riempie da tutta una vita. Ve la leggo. La seconda lettera ai Corinti, capitolo primo. Versetti 1, 7. Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, Egli ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione, con la consolazione con cui noi stessi siamo consolati da Dio. Guardate che in questi pochi versetti ripete 5 volte consolazione, consolare. Poi continua dopo, ma vorrei fare una piccola pausa qui per dire ci sono diverse parole nella nostra lingua italiana che esprimono lo stato d'animo di una persona contente. Sono felicità, contentezza e consolazione. A me piace più di tutte, sono belle anche le altre, ma a me piace più di tutta la consolazione. Perché la consolazione io la assomiglio a una pienezza, a un'abbondanza, a un'alta marea che sale inesorabile e invade l'arenile. Perché la contentezza e la felicità potrebbero essere anche come delle grandi onde, bellissime, spumeggianti, ma la consolazione è un'alta marea che non la ferma nessuno e invade la tua anima. Poi continua e dice, quando siamo tribolati è per la vostra consolazione e salvezza, quando siamo confortati è per la vostra consolazione, la quale vi dà forza nel sopportare le medesime sofferenze che anche noi sopportiamo. Sappiamo che come siete partecipi delle sofferenze, così lo siete anche della consolazione. E qui c'è come un secondo passo, no? Dio ci consola con la sua consolazione anche nelle nostre tribolazioni. Perché? Perché anche noi possiamo consolare quelle che si trovano in ogni genere di afflizione, con la stessa consolazione con cui siamo consolati da Dio. E così mi commuoveva l'altro giorno che una donna, vedendo insomma che è un periodo in cui la salute non è il massimo della vita, mi dice: ma lei deve stare bene, io chiederò al Signore che lei stia bene, stia molto bene ancora per tanti anni, perché ci possa consolare, ci possa seguire, ci possa dare da mangiare il Vangelo. Amici, io quando chiedo la salute a una persona, la salute per una persona, la chiedo a Dio, normalmente uso questa espressione: Signore, ti chiedo la guarigione o di star bene o di stare serena affinché diventi un operaio del Vangelo, una operaia del Vangelo, un pescatore di uomini. Perché noi siamo creati per questo, per la vita che abbiamo ricevuto, diventiamo datori di vita. Una madre non fa così, è generata affinché a sua volta possa generare. Ma questo vale anche nello spirito. Signore, riempici di te. E questo noi dobbiamo chiederglielo con una preghiera intensa, eh? Con quelle mortificazioni anche che piccole o grandi che la vita ci dà o che non siamo capaci di offrire. Signore, riempimi di te, affinché io stesso possa aiutare gli altri. È quell'espressione che non è mia, che ho copiata da San Bernardo di Claraval: lo Spirito Santo riempie il mio petto di latte spirituale affinché io possa nutrire voi, diceva ai suoi monaci. È quello che io auguro anche a voi, che anche voi dovete pregare: Signore, riempimi di consolazione, riempimi di sapienza. Ho appena spiegato i sette doni dello Spirito Santo seguendo la catechesi di Papa Francesco, li trovate in giro anche sul mio canale YouTube. Che belli, che belli, che belli! Signore, riempimi dei doni dello Spirito Santo, sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e santo timor di Dio. Francesco li spiega proprio bene, anch'io cerco di fare un po' il suo pappagallo, il suo divulgatore, no? Che belli, amici, che belli, che il Signore ci riempia proprio così, perché anche noi possiamo. Vengono da Dio, la consolazione e i doni dello Spirito vengono da Dio, ma noi dobbiamo condividerle, perché tutti noi siamo responsabili di qualcuno. O no? Certo, provate a riflettere, anche chi di voi pensasse: ma io non sono sposata, ma io non ho parenti, ma io non sono responsabile di nessuno. Pensaci bene, pensaci bene. Per esempio, hai mai fatto la madrina di un battesimo, di una cresima? Hai mai fatto il testimone di un matrimonio? Ma cosa credi? Che queste cose la Chiesa le ha messe lì per far folklore? Padrino, madrina, piccolo padre, piccola madre, testimone, mica solo per firmare il registro, ma perché tu possa dire: sì, io sono testimone dell'amore tra questa creatura e quest'altro. Questi qui sono affidati a te, caro fratello, cara sorella. Hai fatto la catechista, addirittura hai centinaia di ragazzi che ti sono stati affidati. Sei zio, sei zia, anche se non sei sposata. Queste persone sono affidate a te. Hai dei fratelli, hai delle sorelle. Come fai a dire che non sei responsabile? No, io non sono di nessuno. Io non c'ho nessuno. Beh, almeno sei responsabile dei sacerdoti, forza. Il tuo parroco, i tuoi sacerdoti, chi ti ha battezzato, chi ti confessa. Coraggio, la loro santità dipende anche da te, la loro consolazione dipende anche da te. Pensaci bene prima di dar dolore a qualcuno, perché invece di dare dolore con una critica, col chiacchiericcio, caro Papa Francesco, sei costante nel ripetere. Prima di abbattere qualcuno, tu devi essere la sua consolazione. E se non puoi consolare, taci e prega. Taci e prega. Ma io ho bisogno di sfogarmi. Hai ragione. Vai davanti al tabernacolo e a Gesù lì nel tabernacolo, parla male di tutti quelli per i quali tu senti di criticare, diglielo: Gesù, ma non vedi che fa così, che fa così? Ma Signore, ma non ti accorgi che questo tuo ministro sta scandalizzando? Ah, questo è uno sfogarti straordinario. Concludo. Tu devi diventare consolazione per tanta gente e il tabernacolo diventi il tuo sfogatoio personale. Ciao, auguri.